De Rossa, martedì 16 aprile, questa è Note Cose Città. Ciao a tutti e a tutti, bentrovati e bentrovati. Ma come ti sei vestito? Vabbè. 06 49 17 50, www.onderossa.info per tutte le informazioni, i palinsesti, le trasmissioni in podcast e soprattutto per partecipare alla campagna di radio abbonamento 30 per 1000 per Radio Onda Rossa. Dai, dai, dai. Cioè, i pantaloni arancioni, i mocassini marroni, la camicia viola, Madonna santa, mi sembra boh, non lo so. Che primavera è quasi. Ma ciao a tutti, sì, ciao a tutti, innanzitutto scusate, ma anche vorrei mostrarmi come persona educata. Sì, siamo stati tutta la settimana scorsa a prendere in giro Federico Buffa, però non mi pare che ci sia tanta differenza. A parte non c'ho né risvoltini né mocassini. Ho capito, fa, però boh, non lo so, non è che c'hai più boh 15 anni. Cioè sembri. Guarda quanto sei limitato. Brad Pitt quando faceva Blu, no? Che c'aveva tutti quei vestitini. Non l'ho visto. Non l'hai visto? Figo. No. E sei vestiva tutto così, tutto colorato, però insomma, è finito il freddo. Passerà pure questa. Te vuoi Fallello Arena più che Brad Pitt. Brad, dove mi porti, Brad? Pianta, se mi chiami Brad non rispondo. Dimmi. Beh, dico, dove mi porti? Chi? Tu. Non chi? Non, dai, ti prego, non farmi. Dove andiamo oggi, volevi chiedermi, Ale? Dove andiamo oggi? Dai, oggi andiamo sulla tavolozza dei colori. Ah, no? Mazza, come. Molto Amélie, eh? Che cosa? Questa cosa sui colori. No. Perché Amélie? Amélie, mi fa pensare a Amélie, che stava tutta nei colori. No, vabbè, no, a me sì, mi fa pensare. Non colgo i tuoi riferimenti cinematografici. Io ti avevo portato pure un sacco con i legumi secchi, se volevi mettere la mano mentre parlavi. Non so. Non so se vuoi. Vabbè, aspetta. Vabbè, scusa, detto dai, serio. Era per tavolozza dei colori, se preferisci andiamo nello studio di un pittore, se perfetto, preferisci così. Molto magari meglio. Andiamo in quello di Kandinsky. Magari. Ah, vabbè. Incontreremo spesso non te voglio lungo questa puntata. Kandinsky. Non te voglio di niente, te faccio solo vedere il telefono, non ti dico, non te voglio di altro. Come si è segnato per K? No, non ti preoccupa. Dai, sul serio. Dicevo, magari andiamo nello studio dei Kandinsky e incontreremo spesso lungo questa puntata. Cioè, insomma, cercheremo di raccontarvi il legame tra musica e colori, l'avete capito, grazie al brillante spirito, la brillante ironia di Ale. Certo. Un rapporto, quello tra musica e colori, tra suoni e colori, studiato da secoli, noi non ci inventiamo nulla, insomma. Però, insomma, cercheremo di mettervi bella musica e soprattutto lavorandoci abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti, almeno io, Ale. Tu per esempio sai che cos'è la sinestesia? La? Sinestesia. Guarda, adesso che è periodo comunque de polline, sì, cioè so di che parli. No, casomai quella, perdonami, la sinusite, ma non c'entra neanche con col polline, immagino. Ah, sinestesia, hai detto? Sinestesia. Sì, lo so. Lo sai, lo dici tu o lo dico sì, io? Sì, no, dillo tu. Ok. Guarda, è un fenomeno percettivo che colpisce il 4% della popolazione mondiale, quindi non pochissimi in realtà. Si attiva, non mi interrompere, sto spiegando, quando stimolazioni che provengono da uno dei nostri cinque sensi si trasformano in una percezione sensoriale differente. Quando il riconoscimento dei suoni si traduce in identificazione di colori, la sinestesia è detta anche cromostesia. Ce la facciamo? Cromostesia. Sì, ci sono. Okay. Questa contaminazione sensoriale avviene solitamente a senso unico, cioè vedi una nota musicale come un colore, ma quel colore non richiama quella stessa nota alla mente. E fino a qua pure io direi che ho capito quello che sto leggendo. La sinestesia in forma leggera e di fatto impercettibile appartiene a tutti noi per il fatto che tutti i nostri sensi sono collegati fra loro. E vabbè, Questo è abbastanza semplice pure da capire. Recenti studi hanno confermato che può essere ereditata la sinestesia o la cromostesia, però si eredita la condizione, non il modo di percepirla, nel senso che la sinestesia può riguardare altri sensi e l'intensità con cui è percepita può essere differente. Quindi non è vero che la cromostesia può essere ereditata. Mai detto. No? Non l'ho detto io poco fa, quindi mi sto smentendo. Restando in ambito musicale, diversi musicisti hanno dichiarato di essere sinestetici, o meglio cromostetici. Tra questi, Tori Amos, una delle tue cantanti preferite, se non vado errato. Sì. Il grandissimo Stevie Wonder, Pharrell Williams, Billy Joel, Eddie Van Halen. E ancora Duke Ellington, che non so se sapevi Ale, associava il blu scuro alla nota Re e un azzurro chiaro al Sol. Ah. Oppure Kanye West, anche il tuo amatissimo rapper, che per secondo lui il pianoforte emette un colore blu, il rullante della batteria ha un suono bianco, mentre il basso è marrone scuro. Okay, il blu è uno sul resto, su delle tue prime due cose sono abbastanza d'accordo. Il fatto che il basso sia un marrone scuro non mi convince affatto. Non lo so, ma chi lo dice questo? Kanye West. Ah, Kanye West. Sempre il tuo rapper preferito, sì. No? Giusto? Anche no. Anche no. No? No, anche no. Ma mi parli sempre bene, Kanye West, Kanye West. Sì, vabbè, però. Senti, che facciamo? Cominciamo? Dai, basta chiacchiere. Basta chiacchiere. Per cominciare, direi, se sei d'accordo, ascoltiamoci un pezzo che non soltanto è bello, ma è perfetto proprio per introdurre la puntata. Loro sono gli Alabama Shakes, l'abbiamo già passati, sono dei Cose Città e sono prodotti da un'etichetta che amiamo molto, che è la Rock's Raid, a cui abbiamo dedicato una puntata. La canzone si intitola Sound and Color, apre il loro omonimo album del 2015, un album che curiosamente nel senso l'hanno fatto apposta, ovviamente ha una copertina in bianco e nero, quindi hanno fatto un po' i burroni. Sì. Comunque allora. Sound and Color, Alabama Shakes. Thank you. Alabama Shake, Sound and Color. Allora, come diceva Fabio, il rapporto tra musica e colore comunque viene studiato da diversi secoli, anche influenzato diverse opere, sia pittoriche, pensiamo a Kandinsky, come ha detto Fabio, ma anche Pollock, per esempio, no? Che dipingeva, faceva il suo... come si chiama? Il... Dio, non mi viene la tecnica pittorica di Pollock. Guarda. Ah, ok. E comunque lui ascoltava, per esempio, il bebop, ascoltava Charlie Parker o Gene Krupa e dipingeva proprio ascoltando questa musica. La cosa carina è che poi il free jazz, che verrà un po' più tardi, invece utilizzava proprio i quadri di Pollock per riprodurre in musica quella confusione, diciamo, ordinata. Non a caso Ornette Coleman mette proprio un quadro di Jackson Pollock nella copertina dell'album Manifesto Free Jazz. E in ambito classico anche i compositori come Schoenberg e Stravinsky utilizzavano spessissimo invece opere pittoriche o comunque teorie sugli accostamenti di colore per le loro sinfonie. Noi abbiamo deciso, diciamo, nel nostro piccolo di utilizzare il cerchio cromatico, quindi abbiamo scelto sei spicchi, sei colori, tre dei quali colori caldi e i loro rispettivi colori complementari, ovvero quei colori che se uniti formano una sorta di grigiastro. Partiamo col primo colore, il blu. Scusate, posso interromperti? Scusa Mary. No, prima abbiamo parlato di Kandinsky, no? Allora, Kandinsky, oltre che pittore, come fai tu del resto, si dilettava a scrivere saggi filosofici, insomma, a scrivere anche quello che fai tu spesso, quelle riflessioni che mi mandi via mail. No? Allora, tra le altre cose, probabilmente la più nota è un'opera che si chiama Lo spirituale dell'arte. Come no? Vabbè, lo sapevo, dico a te, dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, non so che tu sei su questo ferratissimo. In questa opera, tra le altre cose, Kandinsky descrive ogni colore in base alle sensazioni e alle emozioni che suscitano, o almeno che secondo lui suscitavano nello spettatore. Non di sushi, che c'ho una fame. Suscitavano. Scusa. Paragonandoli a strumenti musicali. Quindi tu hai detto che scegli il blu. Io scelgo il blu. Vediamo che dice il signor Kandinsky. Diceva: è il colore del cielo, è profondo. Quando è intenso suggerisce quiete, quando tende al nero è drammatico, quando tende ai toni più chiari le sue qualità sono simili a quelle dell'azzurro. E non ti leggo l'azzurro, te lo risparmio. No, grazie. Se viene mischiato con il giallo lo rende malto. È associato al suono del violoncello, che poi è lo strumento che tu anche questo è un tuo strumento, no? Violoncello, sì, adesso non lo sono più perché ho un brutto infortunio al menisco, però sì, comunque è uno strumento che ho suonato per tanti anni. E quindi abbiamo detto, partiamo dal blu. Nel mondo della musica il blu si associa alla tristezza, alla malinconia, pensiamo al blues, no? La musica che raccontava nelle sue origini i guai, insomma i problemi, la vita non proprio allegra dei neri americani. Feeling blue, essere tristi, giù di corda si dice, no? In inglese. E tanti album, anche Back in Blue, per esempio la canzone di Louis Armstrong, nero e... Mi sto chiedendo alla Mussolini come avrebbe tradotto giù di corda, non mi viene down the cord. Sì, down the cord. Vabbè. Down the cord, fantastico. Scusate. E quindi niente, tanti altri album che hanno proprio il blu nel titolo per rappresentare un po' la musica che... troviamo all'interno. Blu di Joni Mitchell, no Fabio? Non è proprio un album, insomma, che non è proprio, diciamo, adatto a una festa, no? Allegria. Non lo metterei un party. Esatto, The Blue Mood of Spain, per esempio, lo stesso Kind of Blue, insomma, gli esempi sono tantissimi. E non ultimo il Blue Monday, invece, che non c'entra niente con la musica, però insomma, no, come è associato. Beh, insomma, il giorno più triste dell'anno. No, vabbè, New Order c'entra con la musica. Blue, sì. Monday. Il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. È anche un pezzo di sì, sì, però io lo dicevo. Vabbè, ciao. Vabbè. E alla prossima, ci vediamo martedì prossimo. Nel mondo dei colori, invece, il blu, appunto, come diceva Fabio, è anche il colore della spiritualità, dell'equilibrio, ma anche soprattutto della calma, dell'armonia, visto che ci rimanda alle profondità marine. Proprio il blu è il colore della fattanza, dei sangue misto. Nella traccia precedente, piglia male, erano le paranoie a salire, in questa fattanza blu invece e ci si rilassa con Neffa, Deda e DJ Graff, ci lasciamo andare in uno stato di abbandono. La base già ci trasmette questo senso di cullarsi, anzi di galleggiare, tutto è blu intorno, come canta Graff, blu come la nota che nuota dentro il blu dell'acqua con le onde, come le rizla lunghe, blu come lo schermo del campionatore. Quindi la paranoia è finita nell'ultima traccia, notte, il blu si intensifica, diventa nero e l'album termina. Loro sono il sangue misto, questa è fattanza blu, questa è Note e cose città. Blu come il mare più profondo sopra il mondo che gira, blu come nella mista, nella mano sono esperto. Ciao mamma, guarda come mi diverto, bella lì. Ne fai il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure il kiff. E oh, fumo porre ma non faccio sniff. Assumo cascisci in quanto faccio su, e in quanto faccio su, la mia fattanza è una fattanza blu. È una fattanza blu. E questa è la fattanza blu dei Sangue Misto. Ringraziamo intanto Barbara che ci ha fatto un trillino per riascoltare la canzone. Eravamo però ormai quasi alla fine. Fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo. Quel che è giusto è giusto. Assolutamente sì, non si guarda in faccia a nessuno. Quindi seguendo la ruota cromatica, come l'ha spiegato prima Ale, il colore complementare al blu, dimmi se sbaglio Ale, è l'arancione. Assolutamente giusto? Sì. sempre ormai utilizziamo Kandinsky, quello, la spiritualità dell'arte, nella spiritualità dell'arte lui la ragione scrive questo, esprime, tipo i segni zodiacali Kandinsky, tipo, praticamente fa, sì, è il tuo, sì, è il mio Paolo Fox, sì. Okay. Oggi è il mio Paolo Fox. L'arancione esprime energia, movimento, paragonato al suono di una campana o di un contralto. Lavoro? Adesso... Lavoro? Lavoro bene, grazie. Ok, grazie. E adesso io non vi farò ascoltare, non vi faremo ascoltare né campane né contralti, però certamente il pezzo che stiamo per mettere esprime, sì, energia è vero, ed esprime anche movimento. E l'arancione, Ale, sempre che tu hai studiato più di me, è un colore caldo, non è un colore primario, no, però è un colore, è un caldo, colore caldo, il colore caldo è associato spesso, nella gran parte dei casi quando fanno test e controtest, è associato a modi maggiori, a pezzi comunque allegri, ecco, sì. Non una ballata a strappalacrime non farebbe venire in mente l'arancione probabilmente, giusto? Sì, sì, diciamo, okay. Sono d'accordo, se il mio, sono, se la mia stella volare oggi, quindi arancione, orange, nella mia associazione ho pensato all'orange juice. Al su, grazie. Madonna, oh, troppo buono. La qualità si paga, eh? Eh sì. Vabbè. Infatti, io forse andrei via adesso. Infatti, però, dai. Perché dai, continuo, finisco la puntata. Quindi, Orange Juice è una canzone magnifica. L'ascoltiamo tra poco. Magnifica, molto bella, molto divertente, soprattutto di Stanley Briggs and the Wave Picture. E, due righe su loro che probabilmente sono poco conosciuti. Allora, Stanley Briggs è il nome vero, è un moniker, il nome reale è André Herman Dune, è un francese, un cantante francese che prima faceva parte di un duo che in maniera molto modesta si chiamava Herman Dune, cioè i suoi cognomi. Ma questo sì, il duo è anche giusto, mi viene anche in mente, cioè è anche facile immaginare perché il duo si sia sciolto. In questo caso suona insieme a una band inglese che si chiama The Wave Pictures, e hanno già fatto 4 album insieme, e l'album è quasi sempre lo stesso, e non è un difetto, cioè sono canzoni molto spartane, molto solari, e il merito principale è che riescono a catturare momenti davvero spontanei, sembra quasi di ascoltare una jam a fine serata, la Vampire Weekend, in cui si divertono loro e si divertono loro e si diverte certamente il pubblico. E Stanley Briggs e Wave Picture, Orange Juice. It's raining. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. I'm old and cold and tired and useless and toothless, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. doesn't have a meaning. Life doesn't have a meaning. Anything goes. You might as well be dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. E questa era Orange Juice. Noi andiamo avanti con il prossimo colore, cambiamo quindi anche decisamente atmosfere, è il verde. Io, Fabio, ti chiederei, vado già sul foglio in mano, che il dice? Maestro diceva: il verde è mobilità in un'assoluta quiete. Ah, mobilità in un'assoluta quiete, soltanto verso il giallo acquista energia paragonato ai suoni di un violino. Ok, perfetto. E tra l'altro il verde è anche un colore che viene considerato quasi di frontiera, perché si trova nella ruota dei colori, è più vicino al giallo, quindi al primo dei colori caldi, piuttosto. Quindi quello è il verde militare, quello di frontiera. Sì, eh? È il verde militare. Esatto. E appunto, quindi nelle varie sfumature, nelle sfumature più chiare, quasi a volte accostato appunto ai colori caldi, è il colore della natura, naturalmente, della sostenibilità, dell'ecologia, insomma è anche il simbolo di tanti movimenti che si occupano appunto di ecologia. Esprime relax e calma, è il colore più rilassante, anche perché è il più semplice per l'occhio umano da rielaborare. E tutto questo valore simbolico è perfettamente utilizzato dall'autore della prossima canzone, qui diciamo di capolavoro, se proprio non lo è, però insomma che ci siamo molto molto vicini, e che cerca. Il solito entusiasta. Eh? Sei il solito entusiasta. Perché? No, così. No, beh. Mandava di sparare a zero. No, volevo entrare anche insomma col mio animo all'interno del verde, ma scusa, no? Calmo, rilassato, tranquillo. E perché appunto nella prossima canzone il protagonista cerca proprio nella natura, tra l'erba verde, un momento di relax. Lui è Tom Waits, la canzone si chiama Green Grass. È un prima il sangue misto, adesso sì. Green Grass. Adesso Green Grass. Chissà se c'è un nesso nella mia non mente lo so. Che ha fatto una. Effettivamente non ci avevo fatto caso. È un susseguirsi di immagini in cui il protagonista invita la persona che è colui a sdraiarsi appunto nell'erba verde e a ricordare quando si amavano. È bellissima la fotografia che Waits costruisce, che fa da cornice ai momenti raccontati nella canzone. C'è un cielo carico di pioggia che sta per insomma per esplodere, sta per piovere a dirotto. Da un momento all'altro il vento e la calma dei due protagonisti sdraiati nell'erba con la necessità appunto di ricordare un amore finito. La prima strofa e anche l'ultima recita: posa il capo dove una volta c'era il mio cuore, fa che la terra non mi cada addosso, coricati nell'erba verde, ricorda quando mi amavi. Il testo andatevelo a leggere perché è veramente una poesia magnifica. Green Grass, Tom Waits. Smells like any costume. Can't tell the birds from the blossoms. You'll never be free of me. You make a tree from me. Don't say goodbye to me. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. Green grass, questa è sempre una cosa città, stiamo parlando di colori. Tra l'altro, Fabio, sai che ho letto che hai sentito il fischio di sì, di Waits, che bello, e dice che lui si ispirava a Axl Rose. A chi? Axl Rose. Axl Rose? Sì. Sul fischio? Sì, sì. No, l'ho notato un po', c'era un po' di patience proprio dentro. Dice, io sentivo Axl e da lì mi è venuta sta passione per il fischio. No, è abbastanza chiaro, ha fatto bene ad ammetterlo. C'ho sempre sul fischio è un maestro per tutti. Sì, sì. È grande Rose. Senti, a proposito di Rose, Rosa, potevamo... Rose, Rosa, vai, colore? Non ho fatto, io Rose, faccio la rosa, e il prossimo colore che c'hai? Rosarum, che mi stai chiedendo? Io pensavo era un gioco in latino. Il prossimo colore che c'hai, dai, vai avanti. Dai, a parte le battute, sempre continuando sulla ruota cromatica, il colore complementare, tu sempre guardami e dimmi se sbaglio. No. Il colore complementare al tuo verde è il rosso. Ok. Kandinsky? Leggo? Vai, vai. Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto, ma diverso dal giallo, perché non ha la sua superficialità. L'energia del rosso è controllabile, quella del giallo più libera. Il rosso medio è profondo, il rosso scuro è più meditativo, è paragonato al suono di una tuba. Adesso io... Rosso alla tuba? Così dice Kandinsky. Sì, eh. Vabbè, infatti io nel dubbio la tuba non l'ho scelta come strumento. No, nella... non sono d'accordo, infatti. Vabbè. Sì, poi infatti... Poi dopo di questo magari ne parliamo in un secondo momento. Infatti sì. Infatti è morto. No, io adesso non so che rosso ho scelto bene, se è meditativo o se è profondo. So che il rosso è un colore che evoca diversi immaginari, può essere legato alla passione, può essere legato, insomma, a tante sfumature, tante sfumature di rosso, al pericolo, il sangue, no? Sì, sì. Sì. Io alla fine mi sono concentrato, ma non perché siamo su Onda Rossa, tra parentesi, ma sulla politica. Ho pensato al rosso legato a una bandiera rossa, diciamo così. Non che vi faccio sentire adesso bandiera rossa o bella ciao, però da lì sono partito. C'è una canzone molto bella, una canzone di Billy Bragg, la canzone che apre il suo album del 96, che si chiama William Block. La canzone si chiama From Red to Blue, utilizza due colori, cioè da rosso al blu. In questo caso lui durante la canzone è come se parla con un suo amico, si sta rivolgendo a qualche suo vecchio amico, ex amico. Si dice confidenziale. E From Red to Blue, il fatto è dal rosso al blu, e sta rimproverando l'amico per aver abbandonato gli ideali rossi della gioventù, diciamo, di quando erano più giovani, più coerenti, per essere passato al blu. In questo caso il blu si intende per essere diventato conservatore, per essere... non lo so adesso, non lo so tradurre nella situazione italiana, neanche in quella inglese. Comunque il senso è questo, cioè ti sei invecchiato alla fine, hai perso colore, poi ti sei sbiadito, non lo so, si potrebbe declinare in tante maniere. Durante le canzoni poi non sono gli unici due colori, il rosso e il blu, quelli che cita Bragg, parla anche del grigio, attacca la canzone parlando di una giornata grigia. E poi ci dà il verde di cui hai parlato tu. Anche questo caso lo lega alla politica. Bragg è padre, questo disco esce nel 96, il disco precedente era del 91. In questi 5 anni, la pausa più lunga che si è preso durante la sua carriera musicale, se l'è presa proprio perché era diventato padre, quindi preferito voleva dedicarsi alla compagna e al figlio, al figlio appena nato, e probabilmente sull'onda di questo momento, di questa emotività così, in questo momento così particolare, lui durante il testo dice, si chiede: devo continuare a votare rosso per la mia classe, per la mia appartenenza di classe, o devo votare verde pensando al futuro dei nostri ragazzi? Vabbè, adesso non so lui che cosa ha scelto, e forse è meglio non andare a votare, ma detto questo, noi ci sentiamo Billy Bragg, From Red to Blue. Another day dawns gray. It's enough to make me spin. But we go on our way, just putting up with it. And when I try to make my feelings known to you, you sound like you have changed from red. From Red to Blue, Billy Bragg. Andiamo avanti, continuiamo sempre dalla parte dei colori freddi. Il prossimo colore. Peccato che parli e non mi fai ascoltare la canzone sotto. E come faccio? Mica sono Andraghe, per forza. È una radio. No, niente. No, non è una radio, niente. E no, non lo può fare nessuno, credo, sta cosa, in nessuna radio. No, se no te isolo, cioè levo la voce mia dalla cuffia tua, no, e tu te senti la canzone, ti faccio un segno quando partiamo. Poi magari vengo da solo. Prego, magari martedì. Senti, non essere pervaloso. No, martedì non andiamo in onda. Ah, martedì non andiamo in onda, neanche quello dopo. E tu parti. Non lo so, che devo fare? Prima volta. Vabbè, senti, fa il viola, che dice Seychelles, maestro? Seychelles, che scelta strana. Dico le Seychelles. Ma guarda, le Seychelles, perché alla fine, non lo so, c'è un last minute e sono, sì, mi butto sulle Seychelles. Senti, dai, a parte scherzi, viola, che dice il maestro? Ah, scusami. Il viola, il maestro è sempre grandissimo. Sì, sì, si... magari c'è qualcuno che ha acceso la radio ora. Il viola è instabile ed è molto difficile utilizzarlo nella fascia intermedia tra rosso e blu. È paragonabile, questo vabbè è ovvio, al corno inglese, alla zampogna e al fagotto. Beh, il fagotto mo non lo so, però la zampogna direi proprio che non c'entra proprio niente. La zampogna per me è verde, sai, che l'associo a... boh, vabbè. E... c'è un artista, l'unico che abbiamo scelto a rappresentare invece proprio un colore, però facciamo prima un passo indietro. E... c'è un'azienda americana, si chiama... aspetta, Pantone, ecco, non trovo il nome, che si occupa proprio di catalogare i colori, cioè loro hanno una sorta di dizionario dei colori, però lì identificano un tono di colore in modo univoco e poi attraverso un software riescono anche a ricreare una corrispondenza perfetta tra il colore visualizzato sul monitor e quello stampato. L'azienda Pantone, oltre a catalogare i colori, li crea e ogni anno assegna ad un colore proprio il riconoscimento di colore dell'anno. Tra l'altro, hai visto quando arriva l'estate che ti dicono quest'anno va il bianco, il giallo. Ma tu vuoi sapere che va quest'anno? Io lo so già che va quest'anno perché ho letto il sito, vabbè. Perché Pente Pantone è il punto di riferimento poi a quale si ispirano non solo i creatori di moda, ma anche, che ne so, chi si occupa di pubblicità, quindi mettono quel colore, danno più risalto a quel colore nelle loro opere. E la sua importanza l'acqua calda, vedo. No, però non sapevo che fosse Pantone a fare tutta sta roba. Nel 2017, quindi l'anno successivo alla morte dell'artista che stiamo per presentare, ovvero Prince, il 22 aprile, tra l'altro tra qualche giorno saranno 3 anni, e Pantone ha creato un colore dedicato proprio al grande artista di Minneapolis. Il colore si chiama Symbol 2, Love Symbol è anche il nome di un album di Prince del 1992. Il colore viola è stato sinonimo di quello che Prince è stato e quello che sarà sempre. Questo è un modo incredibile per far sì che la sua eredità viva per sempre, ha detto Troy Carter della fondazione Prince, con cui in collaborazione proprio con Pantone è stato fatto questo colore. Il colore si ispira al viola del pianoforte personalizzato che la Yamaha aveva creato appositamente per l'artista americano, oltre che naturalmente al film e alla canzone Purple Rain. E colore dell'anno nell'anno successivo è stato appunto proprio il viola, con una gradazione che si chiama Ultra Violet, a diventare il colore dell'anno. E anche Spike Lee poi a febbraio, in occasione delle premiazioni della notte dell'Oscar, proprio in omaggio a Prince, si è presentato tutto vestito viola. Non so se l'hai vista la foto. No. Aveva anche la montatura degli occhiali viola, il ciondolone di Prince. E il significato della Purple Rain, cioè di questa pioggia viola, nessuno lo sa, sono state fatte tante teorie, da quelle più spirituali, insomma un sacco di parole buttate lì a vanvera, però è inutile elencarle tutte. I think you better close it and let me guide you to the Purple Rain, credo dovresti chiudere la tua mente e lasciare che io ti conduca nella pioggia viola. Questo è Prince, ce l'ascoltiamo in una versione single uscita per le radio, la versione integrale dura circa 8 minuti, questa ne dura più o meno la metà. Purple Rain. I never meant to call you when you found wrong. I never meant to call you when you pain. Prince, Purple Rain, questa è veramente, veramente un delitto. Sto parlando, ormai parla sopra. No. Vabbè, ma è un delitto sfumare così Purple Rain. E così, sì, così finiva. Vabbè, te l'abbiamo. E no, vabbè, niente, io volevo dire a Candischi con i zampogni, faccio a fare la festa patronale. Perché, insomma, no? Abbiamo un po' più di rispetto. No, dai. Vabbè, sì. Ma mi stacca là un po', Russo del 19. No, ma butto secolo, quel quadro. Che pensavi ti diceva la chitarra elettrica? Va bene. Quindi abbiamo la splendida Purple Rain. Sciocco. La splendida Purple Rain, quindi il viola raccontato e messo in musica tale, il colore magari complementare al viola e il giallo, cioè veramente il giallo e il viola sono i colori dei Lakers. Chi parla? Non lo so. No, dimmi. No, scusa, decidi, scusa. Decidi tu, diciamo. No, perché dico magari che ho composto io. Ho detto non stavo qua, qua no, in radio dicevo io qua. Io non ho detto composto, però. Hai detto una cosa simile. Messo in musica, messo cioè, in musica, hai scelto, hai declinato. Declinato, vabbè, ma dai, su. Ho suonato, vabbè, dai, vai, vai avanti, fa. No, no, sta appena a bruttare, ho già capito, vai. Vabbè, comunque sì, adesso me lo spiegherai in un secondo momento. Dicevamo il colore complementare, sempre nella ruota cromatica, il colore complementare al giallo, io stavo parlando anche al viola e il giallo, io ha interrotto, parlavo di giallo e viola, Magic Lakers, Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, ricordi sì, quando sì. Tu eri già un grandicello, ma vabbè. Quindi il giallo Candischi dice, dotato di una, posso leggere? Sì. No, credo che fa la faccia offesa. No, scusa, so. No, perché stavo pensando, io ho sempre tifato Lakers. Anch'io. Ah, pure tu? Tu ce la faccia un po' più da Boston Celtics. Invece. Io invece c'avevo tutta una cricca di amici che tifava per i Chicago Bulls, sai, Michael Jordan, Scottie. No, Pippen. Stai confondendo periodi proprio. Cioè, i Lakers con i Boston Celtics. No, tu... i Lakers con i Chicago Bulls. Sì, un'altra anni dopo. Vabbè, lascia perdere, dai. Mi parli di Magic Johnson, mi parli di Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy. No, Kareem Abdul-Jabbar io ho detto solo Magic Johnson. Oh, ci ha giocato come contro sì, Michael Jordan. Probabilmente sì, tanto io non seguo, sai, gli sport. Vabbè, non mi piacciono. Gli sport con la palla. Non mi piacciono. Io amo il golf, la pallina vale? Sì, sì, sì. No, cioè, sono abbastanza appassionato di golf. Vai, questo vai, ne vai. Parliamo in un'altra puntata. E quindi il giallo. Il giallo. Sì, vabbè, se gambo. Non lo vedi, non l'ho letto ancora, devo leggerlo. Sì, devi leggere. Dotato di una follia ricca di vitalità, viene paragonato al suono di una tromba, di una fanfara. Il giallo indica anche eccitazione, quindi può essere accostato spesso al rosso, giallo rosso. Il giallo con la tromba? Ti evito la battuta che avresti fatto. No, vabbè, se la faceva quei sangue misto Candischi, però. Cioè? E qua la fattanza blu dei Candischi, però giallo e tromba non ce li vedo proprio. Come non ci vedi già? No, come accostamento. Anche già il colore aiuta forse, no? Sì, giusto qui. Vabbè, fa, vai. No, vabbè, dimmi. Niente. No, vai, dimmi avanti. Tu che vorrei, dimmi. No, tu... no, che non ci vedo questo accostamento tra il giallo e la tromba. Il giallo io lo facevo più, che ne so, un flauto. Ma proprio no, guarda. No, io sì. Vabbè, vai. Comunque sia, è stata per me la scelta più difficile, a parte le scemenze. Diciamo, è stata la scelta più difficile quella di che cosa accostare al giallo. E alla fine... dopo tanti ripensamenti tornavo sempre all'idea originaria, cioè il giallo a me fa pensare al sole. Ma dai, ma è stato originale, infatti è incredibile. Sei anche io delle volte resto colpito dalla mia originalità. Beh, mi fa pensare al sole, e il fatto che faccia pensare al sole non significa che debba necessariamente essere un pezzo solare, allegro, un pezzo reggae, per fare l'esempio più semplice. E quindi questo per dire che cosa? Per dire che e pensando al sole, la canzone che mi viene in mente e che vi faremo ascoltare tra pochissimo è la canzone che apre il disco di tributo di Barry Down Boy, un cantatore inglese abbastanza conosciuto, comunque potrebbe essere un po' più conosciuto per il fatto che ha scritto la colonna sonora molto bella, tra parentesi, di un film che si chiama About a Boy. Scusami, Action Painting non mi veniva, quella prima di Pollock. Quella prima la tecnica pittorica di Pollock, l'action painting, scusami perché mi era ritornata a mente, a me faccio vedere che un par di cose sono. Non c'è Google aperto? No, non c'è Google, guarda. Ok, vai. Quindi dicevo, la canzone che apre il disco di debutto, che resta forse il suo miglior album, è il 2000, il disco si chiama The Hour of the Wilder Beast, la canzone se permette si chiama The Shining, e può essere tradotto, insomma la traduzione quella in questo caso più adatta è brillante, luminoso, perché il testo, da quello che posso aver capito io, il testo racconta, cioè è una storia, lui sta soffrendo per amore e la cosa che lo fa star bene, sta aspettando perché la pioggia, questa è la metafora che utilizza, che la pioggia passi per andare a camminare, per immergersi nel sole che arriva dopo la pioggia e che quindi è più, appunto, più luminoso ancora, più brillante ancora. E non ho altro da dire, vostro onore, quindi Barry Down Boy, The Shining. And suddenly you're in love with everything. Oh, attaccava così, eh? Sì, sì. The Shining, Bradley Drum Boy su Radio Onda Rossa. Bradley Drum Boy. Sì, scusami. E vabbè, dai. E allora, il nostro cerchio cromatico è finito perché non comprende due colori che però abbiamo scelto ugualmente di inserire, ovvero il bianco e il nero. Questo perché il bianco è la somma di tutti i colori, il nero è l'assenza di questi. E il maestro che dice sul bianco? No, il maestro dice quello che hai appena detto tu, e comunque non dovevi fare lo spoiler sul mio nero. Comunque. No, ho solo detto non ci stanno bianco e nero, perché uno dice metto il bianco. Mancanza. Questo lascialo dire a me, sono in mancanza. Allora, comunque, a parte il bianco è dato dalla somma di tutti i colori, ma una somma in cui tutti i colori scompaiono. Vedi? Ho trovato una chiave poetica. Quale maestro, strumento lo associa? Non lo dice? Nessuno. Ah, ok. È il colore della luce, proprio per questa caratteristica, appunto, che contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico. Immaginatevi la celebre copertina di Dark Side of the Moon, con i colori che entrano nel prisma e esce appunto la luce bianca. Il bianco è anche il colore con cui si identifica la purezza. Noi nella prossima canzone invece chi utilizza la luce bianca e il calore bianco ci porta nel corpo e nella mente. È Lou Reed, la canzone si chiama White Light, White Hat, prima traccia di questo album e capolavoro con lo stesso titolo dei Velvet Underground. Con il bianco, infatti, Lou Reed ci descrive l'effetto delle anfetamine, una luce bianca che incasina il cervello e un calore bianco, anche lui, che arriva fino ai piedi tra paranoie e immagini violente. Dopo l'uscita dell'album, la canzone White Light, White Hat subì diverse censure proprio per le allusioni neanche tanto velate, visto che l'anfetamina si cita nel testo. Lou Reed più volte intervistato ha detto che loro ci rimasero molto male quando scoprirono che anche le radio di San Francisco non passavano la canzone. Diciamo, ma San Francisco non mi passate pezzo su anfetamine? Io mi sono immaginato, pensatelo a Sanremo, no, con Baglione, no ma mi fido di lui, sicuramente non sarà così. E vabbè, comunque lui, non potendo più rispetto troppo, per Claudio, assolutamente non potendo troppo Lou Reed e dire no, la canzone non c'entra niente con gli effetti della droga, perché insomma sarebbe stato veramente una presa in giro, ha però aggiunto che nella canzone ci sono anche altri riferimenti al bianco, o meglio che nasconde il bianco, la luce bianca e il calore bianco altri significati. Uno di questi, la luce bianca che dà il colore agli effetti della droga, ha a che fare con i suoi studi e interessi, con alcune pratiche esoteriche ispirate alla magia bianca e al libro degli anni 30 considerato un punto di riferimento sull'argomento, che si chiama Treatise on White Magic, un trattato di magia bianca scritto, se non sbaglio, negli anni 30 da Alice Bailey, che poi ha fatto ho capito dove sei andato. White Light, White Hat, The Velvet Underground, Radio Onda Rossa, Note Cose Città. All white light is bellissimo è anche la parte finale della canzone, in cui c'è proprio questo basso che riproduce un po' la pulsazione accelerata del cuore. Mi rimetto alla clemenza della corte. Abbiamo praticamente finito, adesso c'è il nero, no? Ultimo il nero più una piccola coda. E una coda, certo. Il nero, ormai abbiamo sempre seguito le parole del maestro Kandinsky, lui semplicemente dice il nero è mancanza di luce e un non colore, cioè non dice nulla di diverso di quello che avremmo detto. Esatto. Avremmo detto non serviva essere Kandinsky. Ma posso far pure una mostra all'Ermitage? Sì, assolutamente. A questo punto, no? Comunque anche in questo caso la scelta è stata difficile, perché il nero associato alla musica ti porta dietro tantissima roba, dalle cose, dalle prime che possono venire in mente, dagli AC/DC, sono curioso di sapere che pezzo hai scelto sulle seppie. Sulle seppie, sul nero di seppia. Insomma, su tanti, da tante sponde come colore. Io poi, confrontandomi con Ale, abbiamo scelto un argomento abbastanza pesante, cioè nero come nel senso di dolore, un dolore che può essere causato da una perdita, un dolore che può essere causato da una storia passata, finita male, cioè, una storia d'amore, oppure può essere come il caso di questa canzone. Nero è un male con cui conviviamo, e il male potrebbe essere, in questo caso è anzi la depressione. E la canzone che abbiamo scelto si chiama Black, e è stata scritta da Will Oldham sotto il moniker Bonnie Priestville. È la penultima traccia di un disco che anche questo si lega al nero, perché il disco si chiama I See a Darkness. Billy, no? Bonnie Priestville. Ah, Bill, giusto. Billy. Lui, insomma, mette, toglie la Y. Comunque, il disco si chiama, ed è un disco magnifico, si chiama I See a Darkness. La copertina è nera con un teschio, una maschera di un teschio, sì, raffigurata. All'interno ci sono i disegni dello stesso Will Oldham, che sono anche particolarmente belli, almeno questo è il mio giudizio. Black viene, questo è il titolo della canzone, viene il disegno che accompagna Black, e sono due pugili che sono molto vicini tra loro. Perché? Perché nel testo lui, Oldham, canta, dice sostanzialmente, dice che non sempre puoi sconfiggerlo il nero. Allora, quando stai combattendo, usa il disegno che accompagna la canzone, aiuta nella metafora, cioè quando proprio non puoi sconfiggerlo, allora tienilo più stretto, tienilo più vicino a te, così i tuoi colpi faranno meno male, meno, no? Male. E appunto la metafora è quella legata a un incontro di pugilato. Tra parentesi, di pugilato abbiamo parlato una settimana scorsa, ha parlato anche Attica in una puntata che non abbiamo ascoltato, io non ho ascoltato, ma so che è molto, che sarà molto, sì, bella, hanno raccontato la che ricordiamo sul Royal podcast Rumble. E salutiamo gli amici e compagni di Attica. Quindi Bonnie Priestville, Black, buon ascolto. Black, you are my enemy, and I cannot get close to thee. Our life is ruled by enmity, and I can't weaken that. The only way that I can see is to hold you close to me. Love you for it's meant to be. I weaken your attack. Everything was looped and downy. What was good was up from under, until black, that awful tender, came and popped my sense of wonder. All at once all eyes turned at him, leaving me an unwatched body, and it sagged my body's ribcage out from under Ogler's study. Black was decomposing quickly, this was found offensive to me. His disrespect for life's proprieties made me scared he would destroy me. Black, you are my enemy, and I cannot get close to thee. Our life is ruled by enmity, and I can't weaken that. The only way that I can see is to hold you close to me, to love you for it's meant to be. I weaken your attack. So I thought I'd try to cut him, try to force him neath my level. The only way to equal to him would be hit him with a shovel. But to really rise above him, that would be the final evil. So instead I asked the sucker if he'd care to see my rooms. and as a friend and as a comrade, and all the things that these implied made him leave what was it he had used to keep us alive. Black, you are my enemy, and I cannot get close to thee. My life is ruled by enmity, and I can't weaken that. The only way that I can see is to hold you close to me, to love you for it's meant to be. I weaken your attack. Now Black and I, we are together, fairly just inseparable. And in the terriblest of weather, our bond is incorruptible. Black, you are my enemy, and I cannot get close to thee. Our life is ruled by enmity, and I can't weaken that. The only way that I can see is to hold you close to me, to love you for it's meant to be. I weaken your attack. Bellissimo, bravo Fabio, Bonnie Prince, Bill, Black. Noi siamo arrivati alla conclusione e ci lasciamo con la prossima canzone, poi non ci sentiremo né martedì prossimo e neanche quello dopo. Fabio, le Cayman mi chiamano, le Seychelles mi chiamano. No, perché ho trovato un traghetto che dalle Seychelles mi porta le Cayman. Ma quant'è? Circa 15 ore mi pare, una cosa del genere. Però sì sì, è un ultra veloce, però vabbè, vale la pena. E allora la canzone la protezione, mi raccomando, Sì sì, l'ho presa. Mi devi prestare le palline, quelle coi ciclisti, le palline coi ciclisti per fare la pista. Ah certo, mi raccomando. A Moser ci tengo tantissimo. A Moser io ho chiappucci, vabbè. E la canzone con cui abbiamo deciso di lasciarci è un po' un omaggio, diciamo, per esaltare un po' tutto quello che ci siamo detti, per esaltare appunto la bellezza del mondo con tutti i suoi colori, gli alberi verdi, le nuvole bianche, le rose rosse, i colori dell'arcobaleno. Sì, perché questa canzone ha un effetto incredibile. Sì, poi sto partendo appunto. E fu scritta da Bob Till e George David Weiss in un'epoca, fine anni 60 siamo, in cui le tensioni razziali erano altissime. La canzone appunto si contrapponeva proprio alla questione del razzismo, cercava appunto di dimostrare la bellezza del mondo e di come questi colori potessero vivere e creare qualcosa di bello insieme. È stata interpretata magistralmente da Louis Armstrong, la canzone si chiama What a Wonderful World e racchiude appunto tutti i colori che abbiamo provato a raccontare. Con questa ci lasciamo, grazie a tutti e a tutti, grazie anche a Radio Onda Rossa sempre per questa oretta che ci lascia. Fate il radio abbonamento e noi ci vediamo, ci sentiamo tra 15 giorni. A maggio, giorni. Siamo a maggio già? Sì, oggi è 16 aprile. Per forza, sì. Saremo a maggio. 2-3 adesso non lo so, comunque inizio maggio. What a Wonderful World, Louis Armstrong. I see trees of green. Sì, è arrivato il trillino e la facciamo ripartire subito, subito. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.